Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Domenica 2 dicembre 2012, 44esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Ebbene sì, è il decimo mese che andiamo in onda, abbiamo cominciato la prima domenica di marzo ed è questa la prima domenica del mese di dicembre. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Lorenzo Guadagnucci, Silvia Vallecchi e Valentina Reggioli. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Siamo al telefono con Fabrizio Bonetto, che insieme a Michela, sua moglie, a Cavour, come vi abbiamo raccontato ormai diverse puntate fa, hanno cambiato vita e da allevatori si sono convertiti in agricoltori. Fabrizio, come sta andando il vostro progetto? Ciao Camilla, qui tutto bene, il progetto procede, si avvicina all'inverno, ma tutto va come previsto, diciamo abbastanza bene. Che risposta hanno avuto le vostre cassette di verdura con dietro tutto il messaggio della fattoria che mantiene animali liberi, ormai pensionati? Dunque, c'è stata una buona risposta da parte di parecchie persone, molte le abbiamo coinvolte nel venire a vedere da vicino dove nascono le verdure, come vengono prodotte. Ci sono stati buoni riscontri per la raccolta in loco, nel fare la spesa in un modo un po' alternativo che non sia al supermercato, raccogliendo direttamente in campo le verdure. Dunque siamo ottimisti verso il futuro. Tra l'altro, visto che ti sei occupato anche di tante altre cose, avete fatto un corso di bird feeding, quindi avete insegnato alle persone come dare da mangiare agli uccellini, e ho visto che è passato in lista che in futuro farete un corso di cucina vegana presso la vostra struttura. Sì, la volontà è quella di creare comunque una realtà, una fattoria molto aperta, sai, al giorno d'oggi se ti chiudi non vai da nessuna parte, e quello che vogliamo trasmettere da una parte il rispetto verso anche la vita animale, verso quegli animali considerati da carne, e trasmettere la possibilità di potersi alimentare con la scelta vegetariana o vegana senza ricorrere a dover uccidere animali per nutrirci. Tornando appunto a bomba sugli animali, perché ne abbiamo parlato in tante puntate, no? Siamo stati con Freccia, siamo stati con Speranza, con Fortuna, con Petra, con le caprette, quindi li abbiamo passati in rassegna un po' tutti. Come stanno questi animali dei quali abbiamo parlato? Freccia non lo si è più visto, meglio così. Un rapace! Si vede che ha ritrovato la sua indole. È buon segno. Sì, buon segno. Per quanto riguarda le caprette, sono tuttora arzille, passano le giornate con le mucche al pascolo, dunque sia la mamma che i due capretti, che oramai tanto capretti più non sono, sono un po' incaproniti oramai. Il mio preferito, quello nero, come sta? Stanno bene. Abbiamo optato con i veterinari per la sterilizzazione, proprio perché non potevamo, sai, a un certo punto far nascere altri animali, non avrebbe avuto senso, ci occupiamo di loro, rimangono loro, vita da single con la mamma, via. Come l'hanno presa? Bene, no, hanno superato tranquillamente il piccolo intervento, si sono ripresi bene, anzi sono molto più affettuosi perché non ne risentono degli ormoni, sai, anche durante i calori, dunque sono più pacciocconi. Sono stati finalmente battezzati, perché ricordo che dicesti che aspettavi la partecipazione dal blog per battezzarli. Sì. Ognuno, sai, lo chiama a suo modo, specialmente quello preferito risulta sempre quello nero, che ha solo più da entrare in tasca. La mamma è stata chiamata duchessa, poi qua sai ci sono 20 bambini che vanno e che vengono, dunque chi lo chiama fiocco, chi lo chiama biscotto, chi l'altro lo chiama puffo, dunque va bene sui tutto. Nomi c'è. Va bene tutto. Invece c'è una storia che non abbiamo raccontato quando eravamo da te, ma varrebbe la pena tornarci sopra, la storia della convivenza tra un tacchino e un maialino, ce la racconti? Sì. Dunque, la storia è di Rot, che in questo caso è un maialino thailandese, e della forte unione che lo legava purtroppo al tacchino chiamato Highlander, un tacchino di 12 anni che da 12 anni che era allevato così a modo amatoriale presso la nostra azienda e che purtroppo però qualche mese fa una volta, si presume una volta, è riuscita a interrompere questo stretto rapporto. Ci è dispiaciuto che la vicenda sia finita così, si vede che era destino, è vissuto 12 anni, gran lunga fuori delle previsioni. Comunque diciamo che rientra un po' nei cicli naturali, il fatto che il predatore si mangi la preda e purtroppo, diciamo, questa è almeno una cosa naturale che avviene in natura regolarmente, però sì. Highlander ha fatto una buona vita e soprattutto mi sembra di ricordare che tu ci avessi detto che una volta avevate provato a dividerli, e cos'era successo? Una volta abbiamo provato a dividerli proprio per fargli fare una vita da tacchino, il tacchino niente, non ne hanno voluto sapere, il maiale ha rotto la recinzione per tornarsene nella gabbia del tacchino, ha violato pure la gabbia del tacchino e infine, a quel punto lì li abbiamo lasciati assieme, dormivano assieme nella casetta maiale fianco a fianco col tacchino, hanno superato parecchi inverni, guai a dividerli, guai a toccare il tacchino e probabilmente è stata una cosa fulminea perché noi non avremmo mai più pensato che anche una volta riuscisse a prenderlo, insomma, in quanto il maialino era molto protettivo nei confronti del suo amico, probabilmente una svista è stata fatale. Ma le volpi non per nulla si dice, no? Furbo come una volpe. E senti, progetti per il futuro? Stiamo puntando anche sul discorso didattico, sul creare un punto di informazione, una diffusione del nostro messaggio del rispetto della vita anche degli animali d'allevamento. I bambini avranno poi modo di conoscere da vicino gli animali della fattoria sotto un'altra veste, noi ci piace dire al di fuori del piatto. E così chi lo sa che magari qualcuno si sensibilizza a riguardo. Stiamo cercando di seguire delle strade, di creare delle strade nel rispetto delle leggi che ce lo consentano di fare. Certo, per avere notizie su di voi, quindi sugli animali eventualmente adottabili anche a distanza. Abbiamo il blog, basta digitare su Google in ricerca la Farm Serenity Cove, la ricerca ti porta direttamente al blog, da lì le persone possono vedere la nostra storia, le attività in corso e quelle che stiamo pianificando. Ti ringrazio Fabrizio, ti auguro buona fortuna, saluto te Michela e ci risentiremo senz'altro presto. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Parliamo con la dottoressa Anna Maria Bassi, ricercatore presso l'Università di Genova in medicina sperimentale e rappresentante della direzione dell'ARF, Laboratorio di Analisi e Ricerca Fisiopatologia dell'Università di Genova. Allora, dottoressa, parliamo del corso da voi organizzato intitolato Culture cellulari, metodi alternativi. Il corso si terrà a Genova, i giorni? Dunque, il 29 e il 30 novembre. E poi verrà rieditato a marzo, tra marzo e aprile e probabilmente anche in autunno. A chi è rivolto questo corso? È un corso rivolto a studenti, le lauree scientifiche e a curiosi volendo, a medici, veterinari, biotecnologi, chimici, farmacisti, insomma chiunque nell'ambito dell'ambiente scientifico voglia imparare e saperne qualcosa di più sui modelli alternativi. Questo corso oltretutto è la terza edizione, quindi abbiamo provato nel 2008, abbiamo avuto un discreto successo, nel 2010 sempre nell'ambito della normativa europea. Giusto per curiosità, fra i partecipanti qual era innanzitutto l'età media e magari anche, diciamo, il campo di lavoro? Ma alcune erano persone magari anche di 40 anni negli anni scorsi, quest'anno non lo so ancora perché comincia a vedere il corso, però magari c'erano due o tre intorno ai 40 anni, alcune erano mie compagne di corso più da tacche, che lavoravano come laboratoriste e che volevano ampliare la loro conoscenza. Uno o due medici mi sono capitati nei corsi, sempre per imparare qualcosa di più, studenti, biologi, farmacisti, quindi insomma l'età media diciamo intorno ai 30 anni, dai 20 ai 30 anni. Leggevo che il vostro gruppo si occupa di metodi alternativi alla sperimentazione da più di 20 anni, che cosa vi ha spinto a scegliere questa strada alternativa? Prima di tutto la possibilità di riprodurre molto meglio i dati, lavorare in maniera più pulita, in condizioni poi oltretutto di coscienza anche pulita dal punto di vista etico. Noi abbiamo cominciato a coltivare cellule di epatoma del ratto, del topo, quelle che c'erano appunto in commercio in quegli anni, e abbiamo visto già per esempio la differenza di risposta tra cellule del topo e cellule del ratto, e quando finalmente siamo passati anche a cellule umane la risposta è ancora più diversa, ecco, perché le risposte tra l'animale e l'uomo comunque sono diverse anche nelle culture in vitro. Che cosa si può dire ai sostenitori della sperimentazione, quelli che dicono che la sperimentazione comunque ci vuole, anche se non è perfetta, come ricordava lei? Penso che sia sempre, che comunque non possa riprodurre quello che è la risposta, se vogliamo dire, dell'uomo, perché appunto il metabolismo è diverso. Un esempio che faccio spesso a lezione, io insegno patologia generale, dico sempre: gli studi fatti sul coniglio, per esempio, per valutare il rischio di teratogenicità piuttosto che di mutagenicità di alcuni farmaci non ha senso, perché il coniglio non è che si mangi l'insalata condita piuttosto mangi, che so, alimenti carne come possiamo fare noi. Quindi comunque l'alimentazione influenza il metabolismo, e a maggior ragione la differenza tra animale e uomo è notevole, visto che poi adesso tantissimi modelli animali su patologie umane sono praticamente stati invalidati. Ratti che manifestano l'Alzheimer è un artefatto, non si può indurre una malattia umana in un animale che comunque vive anche poco. La risposta è comunque diversa. Oggi il metodo in vitro ha aperto veramente nuove frontiere. Secondo lei esiste un qualche esperimento in qualche ambito della medicina o della diciamo ricerca di base in cui è necessario e non sostituibile la sperimentazione animale? Ma sinceramente non so, non credo che ci sia un accordo in cui assolutamente serva l'animale, ecco, onestamente, perché anche studi di embriotossicità che dicono ci vuole l'embrione, allora andiamo a prendere poi del ratto piuttosto che del coniglio, però visto che oggi abbiamo le staminali adulte, umane, possiamo lavorare finché abbiamo avuto i finanziamenti sulle staminali adulte umane, prese da liposuzione. Quindi donne che si sottopongono alla liposuzione, tutto quel materiale che viene scartato è in realtà una riserva pazzesca di cellule staminali. Quindi secondo lei perché ancora in tanti sostengono che la sperimentazione è comunque necessaria? Perché sennò dovrebbero invalidare tanti risultati. Io ho fatto un report dal punto di vista bibliografico su dei sali biliari che vengono date alle donne, cioè vengono date a chi è stato operato di cistifellea. Ebbene, in gravidanza questi farmaci, questi sali biliari non vengono dati, perché degli esperimenti fatti negli anni 70 sul coniglio, sulla coniglia, avevano dimostrato che era teratogeno. Quindi mi è stato chiesto di verificare i dati della letteratura e, con mia sorpresa, negli ultimi 3-4 anni erano usciti un sacco di lavori scientifici, di ginecologi, ostetrica, eccetera, che dimostravano che la donna in gravidanza a cui veniva l'ittero, se prendeva quei sali biliari che aveva smesso di prendere appunto durante la gravidanza, ne aveva un beneficio lei stessa e il feto, l'embrione, quindi nasceva perfettamente sano, roba che non sarebbe successa se la donna avesse continuato a avere l'ittero. Quindi questa maggior ragione testimonia che in Italia avremmo continuato a dire teratogeno non si prende, con il rischio di vita per la madre e per il feto, quando invece già in Australia è stato tolto dall'elenco dei teratogeni, proprio perché i risultati del coniglio e della scimmia non corrispondevano assolutamente all'uomo. E anche tra di noi c'è differenza, no? Quindi dal punto di vista del metabolismo dei farmaci, andare a valutare l'effetto di un farmaco su un cane non so che significato abbia quando probabilmente fra me e lei ci sono delle differenze nel metabolismo anche solo dell'alcol. Cioè, senta, ha uno studente che magari si avvicina a una facoltà in cui è prevista la sperimentazione animale, che cosa, e che magari non vuole farla, che cosa può fare? Gli dico che innanzitutto è possibile l'obiezione di coscienza, mi è successo proprio lo scorso anno, in cui due ragazzi disperati sono andati a dirmi come facciamo, e a questo punto sono diventati dei miei interni, perché in certi posti li obbligano. Ancora qualche tempo fa delle ragazze che sono laureate hanno detto che la dottoranda a cui era stata affidata proprio gli diceva di tutto, dicendo che non sarebbero mai state delle scienziate perché non volevano uccidere gli animali, quindi vengono minacciati, però non tutti sanno che si può fare l'obiezione di coscienza, che ci sono dei metodi alternativi. Allora, dottoressa, restiamo animali? Però, restiamo animali. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Un orizzonte insegue un orizzonte, a un'autostrada un'altra seguirà. Gli spazi sono fatti per andare, la tua libertà. Se vuoi la puoi trovare, e un uomo saggio regole farà, una prigione fatta di parole, i carcerieri di una. Furkul è un cane, un larcher, l'incrocio tra un levriero e un cane da lavoro. Secondo la teoria delle razze canine, quindi, Furkul è un cane veloce come un levriero, ma resistente come un cane da lavoro. L'eroe perfetto per un romanzo come quello di Tim Willocks, intitolato Doglands, recentemente tradotto in italiano e uscito in libreria per i tipi di Sonda. Questo romanzo è una novella, un fantasy, un libro per ragazzi, un libro per riflettere su come ci siamo ridotti nelle relazioni tra specie, quindi un libro decisamente per adulti. È tutte queste cose insieme, dipende dalla lettura che siamo disposti a farne. La storia inizia con Furkul, ancora cucciolo, partorito assieme a tre sorelline da Kiwa, una levriera da corsa, una campionessa, reclusa nella piccola gabbia in cui conduce la sua misera esistenza, tra una gara e l'altra. Furkul, però, è un cucciolo molto speciale. È il figlio di Argal, un cane leggendario, che non si è mai piegato alla schiavitù e che ha vissuto correndo nel vento, lottando per la propria libertà contro la società degli uomini, che nel romanzo vengono chiamati i Grandi. L'allevatore di levrieri, dal quale dipende la loro vita, Deadbon, scoprirà presto che i cuccioli non sono levrieri purissimi e per questo motivo cercherà di liberarsene, come già mille altre volte aveva fatto con tanti cani prima di loro, o in quanto incroci non puri, o in quanto levrieri non abbastanza veloci, o perché ormai vecchi per gareggiare con successo. Furkul sente in sé lo spirito ribelle di Argal e prima di venire eliminato promette alla madre, Kiva, di tornare indietro a salvarla. Così farà, ma la separazione sarà lunga e nel tempo in cui si dispiega il racconto Furkul farà innumerevoli incontri e imparerà tante lezioni preziose. Imparerà qual è il ruolo dei cani nella società dei grandi, il prezzo da pagare per vivere nel comfort domestico. Conoscerà la persecuzione dei randagi, la vita del ricercato, la cattura violenta degli accalappia cani, la vita nei canili lager dove hai solo 5 giorni per venire o adottato o soppresso. Scoprirà l'amore, l'amicizia, la sofferenza, la lealtà e la fraternità canina. Conoscerà le ferite della carne causate dalle armi degli uomini, la loro malvagità, le tecniche sadiche usate per sottomettere e piegare lo spirito libero e focoso dei discendenti del lupo. I cani vengono finalmente raccontati a partire dal loro punto di vista, con le loro distinte personalità, con pregi e difetti, piccole vigliaccate, grandi slanci d'eroismo. Il romanzo denuncia come la società dei grandi si rapporta ai cani, ipocritamente definiti i migliori amici dell'uomo. Ma l'uomo è il migliore amico dei cani? L'allevatore Deadbon fa loro del male per una questione di razza o di performance sportiva. I gestori del Luna Park li bastonano fino a piegarli alla schiavitù per farne dei complici durante i loro furti o per semplice sadismo. Certi umani bonaccioni, come Gary e Harriet, chiedono ai propri cani di barattare i loro istinti per avere in cambio pasti caldi e un tetto per la notte, ma non rispettano i loro bisogni reali e impongono regole contro natura sul cibo, sul gioco, sulle funzioni corporali. Reputano imbarazzante lasciarli annusare dove vorrebbero. Si spaventano e tirano furiosamente il guinzaglio quando, al parco, i cani si chiamano tra loro abbaiando o inscenano quei finti combattimenti che usano per divertirsi un po'. E per un cane come Furgul questo è un limite espressivo inaccettabile. Le strutture stesse dei canili incoraggiano l'interpretazione di uno stereotipo di cane che si fa compatire, che scodinzola in automatico appena si avvicina un potenziale adottante, che mostra devozione e gratitudine per una carezza. Pochi sono i grandi che comprendono profondamente i cani e che sono in grado di rispettarli nella loro specificità etologica e di valorizzare le loro personalità individuali. Ma nel romanzo incontreremo anche questa tipologia di umano. Tutto il libro è pervaso da un'atmosfera epica e spirituale che ho trovato incantevole, a partire dal titolo Doglands, che inizialmente sembra un luogo reale, ma poi si rivela come un modo di pensare, uno spazio di libertà e di autonomia psicologica che solo alcuni cani riescono a conservare rispetto ai dispositivi alienanti e condizionanti della società dei grandi. Sempre dall'epica sembra mutuato il rapporto tra generazioni e anche il concetto della morte. Doglands è un racconto avvincente, al quale non resterete indifferenti. Vi commuoverà per l'epica, per l'eroismo, ma anche per il suo realismo, la sua ferocia, va detto, più diffusa tra i personaggi umani che non tra i protagonisti discendenti dal lupo con i canini prominenti. Una prigione fatta di parole, i carcerieri. E per incuriosirvi vi leggerò un brano tratto dal libro Doglands. Perché i grandi sono così crudeli con noi? Domandò Furgul. Che cosa abbiamo fatto loro di male? Nulla, ringhiò il padre sommessamente. Siamo stati solo i loro compagni più fidati per migliaia di anni. Abbiamo protetto i loro bambini, le loro case, le loro fattorie. Abbiamo tenuto d'occhio gli allevamenti, le greggi. Abbiamo mostrato loro come si caccia. Abbiamo combattuto nelle loro guerre. Quando si perdevano, li abbiamo riportati a casa. Quando avevano fame, abbiamo portato loro del cibo. Abbiamo salvato loro la vita quando stavano per morire. Abbiamo addirittura spazzato via i nostri fratelli, i lupi, per il solo beneficio degli uomini e con nostro disonore, visto che sono stati loro stessi a chiedercelo. Ora catturiamo i loro criminali, usiamo il nostro olfatto per individuare i loro esplosivi mortali o le loro droghe velenose. I ricchi ci usano per sembrare ancora più ricchi, e i mendicanti per tirare su qualche soldo e pagarsi da bere. Li confortiamo nelle notti più nere, nei giorni più luminosi li rallegriamo. Abbiamo amato la razza umana più di ogni altra creatura e loro hanno il coraggio di chiamarci il miglior amico dell'uomo. Si guardò attorno in quel luogo di morte, poi fissò Furgul. Questa è la ricompensa. Ma perché tutto questo? Non capisco. Quello che devi capire è che non si tratta solo di noi cani. I grandi sfruttano tutti gli animali. Tutti noi abbiamo qualcosa che interessa loro. Sfruttano ogni risorsa della natura, credono che la terra sia stata creata solo per loro. Prendono e usano tutto ciò che vogliono e quando si consuma o quando si annoiano a usarlo, si limitano a buttarlo via. Tra tutte le forme di vita, i grandi sono quella più avida, più spietata, più egoista, più traditrice. Ecco perché governano il mondo. E la verità più terribile è che si trattano gli uni con gli altri con crudeltà, disonestà, stupidità, ancora maggiori rispetto a quelle che riservano a noi cani. Ci rendono innocui con museruole, collari e catene, sì, ma le catene che gli uomini legano gli uni agli altri e a se stessi sono più resistenti delle sbarre di queste prigioni. Furgul fissava Argal dritto negli occhi e in essi vide tutte le sofferenze che aveva dovuto sopportare. Vide il genio che gli aveva consentito di capire tante cose, vide la sfrontatezza che lo aveva mantenuto in vita così a lungo in un mondo che faceva di tutto per distruggerlo. Era un re senza corona, che era diventato tale grazie alla propria vita, alle proprie prodezze, al coraggio che ardeva nel suo cuore. Furgul si rese conto di essere il figlio di un re ed ebbe paura. «Papà, dove sono le Doglands?» Argal lo squadrò. «Chi ti ha parlato delle Doglands?» «Kiva, non è che me ne abbia proprio parlato, mi ha detto solo che tu vieni da là e che nessuno le conosce meglio di te. Anch'io ci voglio andare, ma non so dove sono.» «Le Doglands sono ovunque e da nessuna parte.» «Non capisco. Le Doglands sono proprio qua, in questa prigione.» Furgul rimase di stucco. Lanciò un'occhiata a quelle gabbie squallide, al putridume del canale di scolo. Udì sospiri, lamenti dei cani prigionieri. Qua dentro. Ma io pensavo che le Doglands fossero libere e selvagge. Montagne, fiumi, alberi, spazi aperti. Anche quelle sono le Doglands. Ma io le ho viste, le ho adorate, le ho sentite. Lo so, perché le Doglands sono qui. Argal sollevò una zampa massiccia e l'appoggiò sul petto di Furgul. Sono nel tuo cuore. Ogni cane dal cuore libero conosce le Doglands. Poco importa se siamo animali da compagnia, vagabondi, prigionieri. Portiamo le Doglands dentro di noi, ovunque andiamo. Furgul cominciò a capire, anche nella morte, soprattutto in quel momento. Ecco perché la morte non mi avrà mai. Buona lettura dalla vostra Camilla Lattanzi. Se vuoi, la puoi avere. Fossi un uccello alto nel cielo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ciao a tutti, sono Sara e oggi vi propongo una ricetta di farro condito con una deliziosa crema di broccoli e nocciole. Stiamo parlando di ingredienti straordinari, ricchissimi di nutrimenti preziosi. Il farro, che è ricco di proteine, fibre alimentari, potassio, ferro, calcio, sodio e fosforo. Inoltre contiene dei carboidrati dalle particolari proprietà in grado di favorire la coagulazione del sangue e di stimolare allo stesso tempo il nostro sistema immunitario. Poi il broccolo, ricchissimo di antiossidanti, è un potente antitumorale. Contiene una grande quantità di vitamine, di minerali, di clorofilla che aiuta l'organismo nella produzione di emoglobina e di potassio che ha un ruolo importante nella regolazione della pressione arteriosa. Infine la nocciola, che rappresenta una fonte di grassi buoni, tra cui gli omega 6 e gli omega 3. Contiene rilevanti quantità di potassio, fosforo, magnesio, ferro, rame, selenio, vitamine del gruppo B e vitamina A. Inoltre è la varietà di frutta secca più ricca di vitamina E, l'antiossidante per eccellenza. Veniamo ora alla ricetta. Gli ingredienti per due persone sono 200 g di farro, un broccolo fresco, uno spicchio d'aglio, una decina di nocciole, olio extravergine d'oliva, due cucchiai circa di latte di riso, un pizzico di peperoncino, sale e pepe. Cuocete il farro in pentola a pressione, ci vogliono circa 10 minuti dal fischio. Lavate il broccolo, fatelo a pezzetti e cuocetelo a vapore. Scaldate bene una padella. Fateci tostare dentro le nocciole sgusciate per qualche minuto, finché non sentirete il profumino irresistibile di nocciola tostata. Toglietele dal fuoco, levateci le pellicine, si staccheranno molto facilmente, non vi preoccupate, e tritatele grossolanamente. Mettetele in una ciotola insieme ai broccoli, qualche cucchiaio d'olio, sale, pepe, peperoncino, uno spicchio d'aglio un po' tritato e un po' di latte di riso. Frullate tutto con un mixer fino ad ottenere una crema che vi assicuro deliziosa da mangiare anche così. Quando il farro è cotto, conditelo con la crema di broccoli, eventualmente un altro po' d'olio se vi sembra ancora un po' asciutto e servite ben caldo. Ciao, alla prossima! Vi state chiedendo se dei vegani riescono a reggersi in piedi? Vi state chiedendo se anche chi si definisce cruelty free nel suo piccolo ogni tanto si incazza? Vi state chiedendo se anche gli animalisti si divertono a bestia?